Le parole possono fare male. Impariamo a non prendere in giro, ma ad apprezzare le diversità. Diverso uguale unico. No al bullismo.